Lo Star System distrugge! 89 BPM prod, noi siamo l'underground! Face to face, tu solo un fake, tu a Merlo's Place. Io giro Scarface, ascolti la mia take. Hai paura di perdere, io ascolto di André, ma giro con Bobby Mer. Sono scelte e strade da prendere, svendi le rime, dignità da difendere. E si sente, non hai la stoffa da campione. Scrivo il mio copione su sto campione, faccio rumore di chi viene dal basso, di chi tiene le mani in alto. La mia gente sotto il palco, sono il guasto nel tuo ingranaggio. Ben oliato, sono zucchero nel tuo motore. Sei rovinato e ti ritrovi braccato, fiato bloccato da un passato d'azione. Wa sul mic, mela alla produzione. Non venga al tuo tour, non c'è competizione. Conigliano Mon Amour, e faccio roba che esplode. Prima le signore, faccio roba che esplode. Prima le signore, borsette detonatore. Prima le signore, non solo a parole. Scateno la tempesta, ma preferisco il sole. Prima le signore, faccio roba che esplode. Prima le signore, borsette detonatore. Prima le signore, non solo a parole. Scateno la tempesta, ma preferisco il sole. Prima le signore, preferisco parole che abbiano senso, prospettiva migliore. Nel mio film dell'orrore, la prima che muore non è bionda e cretina, ma in divisa un ispettore. Sì, si parla, ma la tua rima m'annoia. Mi chiedi di uscire, sì, arrivo con Petrosian. Paranoia, la prestazione lirica ti esalta, zero gloria. Voglio più donne alla ribalta, mi guardi entrare nel bagno delle signore. Un filo di trucco, poi col pantone scrivo al core. Sono veloce, nessuno mi becca. Faccia angelica indisturbata, me ne vado senza fretta. Vorrei una vendetta, servita fredda, perfetta, scritta e complessa come una ricetta. Devi stare allerta, basta una sola distrazione, ti ritrovi nella merda. Permesso, prima le signore. Prima le signore, faccio roba che esplode. Prima le signore, borsette detonatore. Prima le signore, non solo a parole. Scateno la tempesta, ma preferisco il sole. Prima le signore, faccio roba che esplode. Prima le signore, borsette detonatore. Prima le signore, non solo a parole. Scateno la tempesta, ma preferisco il sole. Pro 89 BPM M Pro.